dovrei comprendere. Se tu da un po' non mi vuoi, non avrei mai capito te. Ma da capire cosa c'è, dovrei tornare a casa poi, se il fiato ce la fa. Parlarti del mio mondo fuori dei miei pensieri, e poi scoprire che vuoi dormire, che non mi senti più, ed io dovrei. Ma spiegami, contro di me, che cosa è, come se io non fossi io. Mi dici che te ne va, ma son quello che respira piano per non svegliare te, che nel silenzio fu felice di aspettare che il tuo gioco diventasse amore, che una donna diventassi tu, noi due nel mondo e nell'anima. La verità siamo noi, noi. Siamo.